A bordo campo di Dario Ricci. Sapete qual era uno dei suoi ultimi sogni? Diceva le sue follie, non so, una roba del genere, sull'andar di matto, insomma. Dobbiamo fare un settimanale solo di notizie belle. Che bella idea. Bisogna che qualcuno prenda il testimone qui tra i presenti. Solo di notizie belle. Quello che avete sentito era Don Gino Rigoldi, era il giorno dell'estremo saluto a Candido Cannavò, che lasciava il giornalismo e la vita il 22 febbraio del 2009. E Don Gino ribadiva nell'omelia, nel giorno dell'estremo saluto al grande direttore della Gazzetta dello Sport, quello che era un sogno semplice e al tempo stesso rivoluzionario di Cannavò, quello di fare un giornale di sole buone notizie. Ebbene, questa idea ci è sembrata, nella sua semplicità, nella sua ingenuità, veramente rivoluzionaria per quello che è il mondo dell'informazione oggi, per quello anche che è il mondo dell'informazione sportiva. Allora, ne parliamo oggi con tanti amici di Candido e tante persone che sono impegnate anche nel tentare di realizzare questo sogno. Allora, Daniele Redaelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, raccontaci come era nato questa idea, come era nato questo sogno nel parlare con Candido, come era sbocciata questa idea? Ma l'idea, più che sbocciata, diciamo che ha percorso tutto i 19 anni, posso dirlo come testimone diretto, di direzione della Gazzetta da parte di Candido. E man mano che la sua direzione andava avanti, questa necessità era avvertita da lui in maniera molto maggiore e riusciva a trasmetterla un pochino a tutti noi. Cercava sempre di fare un giornale di buone notizie e ovviamente non sempre era possibile, però devo dire che il modo che ha avuto Candido di esaltare la buona notizia e di trasmettere a noi questa voglia di sottolineare sempre la buona notizia è stata una grande esperienza e un grande lascito, ecco, che noi sentiamo ancora molto dentro nelle nostre corde. Eh sì, insomma, una grande eredità morale, ma con le notizie buone o cattive ci si confronta poi tutti i giorni e il problema è quello di raccontarle, soprattutto anche per il giornalismo sportivo, che dovrebbe essere un giornalismo in grado di aiutarci a pensare meno alle cose brutte, no? Ai grandi problemi, ma che tra scandali doping, scandali finanziari, eccetera, eccetera, diventa sempre più problematico. E allora, nostro ospite in collegamento è Claudio Arrigoni, direi uno dei maggiori esperti internazionali di sport paralimpico. Benvenuto a bordo campo, Claudio. Un saluto. Claudio, tu sei spesso alle prese con notizie buone, con buone notizie, quelle che arrivano dagli sport paralimpici, ma che in qualche modo vanno anche razionalizzate, no? Raccontate in un certo modo. Ad esempio, nel mondo latino lo sport paralimpico è spesso ammantato di un sentimentalismo, di un contorno buonista che nel mondo anglosassone è già stato sdoganato da tempo, no? Quindi raccontare una buona notizia in modo veramente buono credo che per te sia ancora più complicato. Lo sport paralimpico è denso di buone notizie, che però vengono da cattive notizie in questo caso, cioè comunque da una disabilità oppure da una difficoltà nel movimento. Però devo dire che lo sport paralimpico dà buone notizie. Quello che mi sorprende spesso è che e fra gli ospiti di oggi ci sono persone che sanno bene questo, è che è difficile poterlo presentare, perché sembra che lo sport paralimpico non sia sport vero, sia una sorta di sport di secondo piano. Invece, guarda, io ti dico la verità, ho avuto l'opportunità di partecipare a Olimpiadi e Paralimpiadi. Quando ho potuto scegliere, ho sempre scelto la Paralimpiadi. So che può sembrare strano, però credo che la Paralimpiade oggi porti i grandi valori dello sport. Noi pensiamo una cosa, oltre il 15% della popolazione ha comunque una disabilità e man mano che crescerà l'età, e questo accade nella nostra società, queste persone aumenteranno. Ecco, io credo che saper presentare bene quelle che sono le opportunità che vengono date a tutti, anche attraverso lo sport, sia una cosa buona. Un'ultima annotazione, il linguaggio, credo che questo sia importante. Tu hai parlato dello di come viene presentato nel mondo anglosassone, bene, questo parte dal linguaggio. Si sono superate tutte le barriere sul linguaggio nel mondo anglosassone. Negli Stati Uniti, nel nord Europa, non si parla più di disabili, o meglio, se ne parla solo come gruppo, ma quando si parla di persone con disabilità. Questo credo sia un grande superamento anche nel mondo della cultura. Qualche cosa si sta muovendo, no? Ci racconta Claudio Arrigoni, se si lavora sul linguaggio. Poi alla radice si deve andare alla notizia, no? Ci sono le buone notizie, le notizie buone, e soprattutto le notizie buone sono quelle che hanno le loro radici nel controllo delle fonti, nella veridicità. Ecco, un altro grande amico di Candido Cannavò è rimasto invece vittima due volte di una cattiva notizia, no Bruno? Dicendo Bruno mi rivolgo chiaramente a Bruno Pizzul, benvenuto a Bordo Campo. Ciao, ciao. Ecco Bruno, recentemente ci hai fatto sorridere perché è uscita nelle agenzie la notizia, ahimè facciamo gli scongiuri, della tua dipartita terrena, mentre tu stavi semplicemente giocando a scopone scientifico con gli amici. Insomma, non solo una cattiva notizia, ma veramente una notizia cattiva nella sua gestione giornalistica, no? Ma sicuramente, poi il tutto si è risolto in maniera positiva, anche perché la smentita a quella pseudo notizia è arrivata abbastanza tempestivamente, però è effettivamente lo specchio dei tempi in cui viviamo, no? Nei quali abbiamo a disposizione mezzi di comunicazione che sono potenzialmente straordinari, ma che rendono terribilmente difficile proprio il controllo delle fonti. E per il resto direi che è da condividere pienamente quanto detto da Claudio Arrigoni, soprattutto a proposito di quello che è il linguaggio, no? Nel momento in cui si avverte un po' dappertutto questa esigenza di dare un nuovo respiro etico al mondo dello sport, è chiaro che devono essere coinvolte tutte quelle che sono le componenti, no? Dell'universo sportivo, e tra queste indubbiamente anche il linguaggio sportivo ha la sua brava importanza. Che ci sia questa necessità, no, di bonificare un mondo sportivo, soprattutto direi quello del calcio, che è comunque sempre enfatizzato all'eccesso, esagerato, con anche delle proposte mediatiche esagerate, sta nel fatto che è abbastanza diffuso, no? Adesso l'uso, per esempio, della locuzione del play, no? Fair play, se ne parla continuamente perché evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di troppo pesante, c'è qualcosa di troppo attento alla polemica e alla litigiosità. Fino a qualche anno fa bastava dire sportivo per individuare comportamenti virtuosi, no? In ambito agonistico. Era sportivo chi si comportava bene, chi rispettava l'avversario e via dicendo. Oggi non basta più sportivo, anzi l'aggettivo sportivo molto spesso aggiunto a un altro vocabolo ha accezione che è diventata addirittura negativa, e quindi è assolutamente necessaria una presa di coscienza da parte di tutte quelle che sono le componenti, e quindi anche della componente giornalistica, per cercare di dare una nuova dimensione, cercare di trasmettere delle cosiddette buone notizie. Aggiungo velocemente che il giornalismo sportivo a livello di comunicazione dovrebbe essere attento anche a scavare quelle che sono le buone notizie in un contesto come quello dello sport di vertice, dal quale ahimè discendono troppo spesso esempi pesantemente negativi. Però non facciamo nulla per mettere in evidenza anche quei magari pochi e sporadici esempi positivi che pure esistono anche all'interno dell'universo sportivo. Torniamo a Daniele Redaelli. Daniele, tu che sei tutti i giorni alle prese con l'impaginazione del giornale sportivo per eccellenza, quale notizia vorresti raccontare in questo senso sul numero della Gazzetta di domani, quella di cui lo sport italiano ha più impellente necessità? Beh, credo un sogno che vorrei raccontare sulla Gazzetta dello Sport di tutti i giorni, cioè vorrei, sarebbe una buona notizia molto semplice, vorrei di poter raccontare una partita di calcio allo stadio in cui ognuno ha fatto il tifo per la sua squadra senza insultare l'altra, a meno che non sia uno sfottò elegante e simpatico di cui possa ridere anche la controparte. Basterebbe questo, credo, per cambiare l'aria in cui che respiriamo normalmente a ogni manifestazione calcistica, quantomeno. Eh sì, insomma, è un desiderio piccolo, ma che purtroppo è diventato grande e lontanissimo, sperando che i tempi migliorino. Chiuderei questa conversazione con chi in linea di continuità è uno dei maggiori depositari dell'eredità di Candido, Alessandro Cannavò, uno dei figli di Candido Cannavò e caporedattore al Corriere della Sera. Benvenuto Alessandro a Bordo Campo. Allora, so che il Centro Sportivo Italiano, lo Studio Ghiretti si stanno mettendo insieme, riunendo anche grandi firme del giornalismo italiano per provare a concretizzarla questa grande utopia, no? Questa rivista di sole buone notizie. C'è qualche passo concreto? A che punto siamo, Alessandro? Ma quello che è importante per il momento è parlarne, discuterne di questo fatto. Perché insomma è già importante avere una sensibilità, cioè rendersi conto di questa necessità di trovare delle buone notizie. Quindi non si tratta di essere ingenui o di nascondere le notizie nella loro crudezza, ma si tratta di, secondo me, scovare quegli aspetti di quegli sforzi, diciamo, di cambiare le cose in termini positivi che esistono ovunque. Quello che ha cercato di fare mio padre è stato questo. Lui non ha mai rinunciato a denunciare le storture, le cose che non andavano, anzi è sempre stata una penna molto molto severa in questo senso. Però anche nelle critiche più dure, io ho sempre notato nei suoi articoli una via di uscita, una proposta di riscatto, ecco, una luce che poteva salvare il singolo personaggio oppure poteva raddrizzare una certa situazione. Questo secondo me è, diciamo, l'esempio che lui ci ha lasciato, che ha lasciato un po' a tutti, ed è il punto di partenza per parlare seriamente del discorso delle buone notizie. E allora, sentendo Alessandro Cannavò, pensavo che la sfida che ci attende è sicuramente improba, ma che magari leggendo alcuni degli articoli di Candido Cannavò potremmo già trovare gli strumenti come operatori dell'informazione per provare almeno a giocarcela sul campo. E allora grazie a Daniele Ridaelli, a Claudio Arrigoni, a Bruno Pizzuli, ad Alessandro Cannavò per essere stati ospiti con noi a Bordo Campo, e l'appuntamento allora per tutti è quando finalmente questo giornale ce l'ha avremo tra le mani. Grazie, speriamo di poterlo vedere, leggere, toccare, ma anche quotidianamente un po' tutti nel nostro piccolo. A Bordo Campo. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Eh sì, hai voglia Gianni Morandi, tra l'altro grande tifoso bolognese, a cantare di prati verdi. Forse non ha visto lo stato dei manti erbosi della nostra Serie A, che tanto sta facendo discutere quest'anno. Da Marassi a Genova, a San Siro a Milano, fino al Franchi di Firenze, il San Paolo di Napoli, il San Nicola di Bari, l'Olimpico di Torino. Gobbe, buche, erba spelacchiata che pregiudica la qualità del gioco e mette a rischio muscoli e legamenti dei giocatori. Mentre Lega Calcio e Federcalcio studiano il problema e cercano rimedi, quelli che sembrano essere più vicini alla soluzione di questo rebus erboso sono paradossalmente i dilettanti. Primo ospite di oggi a Bordo Campo è Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Buongiorno presidente. Allora, come vi state muovendo per restituire un minimo di dignità ai manti erbosi del calcio italiano? Dunque, intanto la Lega Dilettanti è partita nel 2002 con i campi in erba artificiale. I campi in erba artificiale che hanno avuto tutta una serie di miglioramenti fino ad arrivare a quelle di ultimissima generazione, che prevedono addirittura una copertura e una superficie con delle sostanze organiche quali caucciù, quali cocco e sughero. Questi campi sono cosiddetti campi che possono trovare anche una soluzione intermedia, i cosiddetti campi rinforzati, vale a dire possono essere seminati. E questo è un problema che non riguarda la Lega Dilettanti, che riguarda i professionisti. Noi siamo entrati nell'idea che i campi rinforzati con la nostra metodologia potrebbero essere messi tranquillamente a dimora a San Siro, a Torino, all'Olimpico, con grandi risultati, perché gli esperimenti che abbiamo fatto sia a Tirrenia, sia stiamo facendo degli esperimenti con la società Chievo e sia con il campo realizzato a San Marino, dove si è già giocato la Champions, noi abbiamo ottenuto un grande risultato sportivo, e l'erba è naturale insieme a quella artificiale. E volevo aggiungere che per quanto riguarda invece l'attività dei campi in erba artificiale propriamente detti, noi ne abbiamo realizzati 1000 in Italia, praticamente con un fatturato di 350 milioni l'anno per l'industria italiana. La Lega Dilettanti ha investito quasi 500.000 euro nel sistema superfici di calcio. Non mi risulta che altri abbiano fatto. Ecco, ma finora che risposta avete avuto? Cioè, quali sono state le obiezioni che in qualche modo sono state mosse ai vostri passi in avanti sul tema? Finora non è stata considerata l'opinione, esclusa la Repubblica di San Marino, che ha fatto il campo per la nazionale, che gioca, come sapete, in Champions, e ha già giocato 2 partite. Noi ci siamo messi in condizioni di illustrarlo ufficialmente alla luce del sole, poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Beh, è proprio vero allora che l'erba del vicino è sempre più verde, ma senza bisogno di andare in Spagna o in Inghilterra, il presidente Tavecchio ci ha dato un indizio prezioso. Proviamo allora a guardare all'ombra del Monte Titano, in quella San Marino, dove una soluzione sembra già essere stata adottata e con successo. Giorgio Crescentini, presidente della Federazione Gioco Calcio di San Marino, benvenuto. Ci racconti un po' cosa è accaduto al campo di gioco di Serravalle. Ma noi abbiamo trovato una soluzione dopo anni di ricerche, di sopralluoghi, eccetera. Nella proposta che ci ha fornito una ditta specializzata, in base al quale era possibile fare un campo diciamo ibrido fra sintetico e naturale, che aveva dava certe risposte, certe garanzie, e dopo attente analisi abbiamo riscontrato che questo poteva rispondere al vero. Abbiamo creduto nella proposta, abbiamo effettuato l'intervento, possiamo dire col senno di poi che le visioni erano corrette, erano esatte, e ne è uscito un bel lavoro che dà grossi risultati, per cui per noi le intemperie praticamente non sono più un problema. Ecco Presidente, un campo, quello di Serravalle, che ha avuto già il via libera dell'UEFA, vero? E già c'è stata una partita internazionale a battezzarlo con questo nuovo manto. UEFA e FIFA, anche la FIFA ha dato il suo ok e considera a tuttora perfettamente naturale l'intervento, dal momento che è in erba, c'è l'erba naturale, che logicamente è un suo ciclo vitale, per cui è considerata vitale a tutti gli effetti, e per cui il manto è considerato in erba naturale, come tutti gli altri, insomma, ecco. Da quanto tempo è che avete questo campo e quali sono invece le controindicazioni, i problemi che eventualmente avete incontrato? Ma noi l'abbiamo costruito l'estate scorsa, diciamo è diventato operativo dall'autunno. Abbiamo già svolto una mole enorme di lavoro, addirittura con un battesimo del fuoco, con 4-5 ore di allenamento giornalieri, anche 8 partite in 6 giorni. E per cui la risposta è stata ottima. Non abbiamo tuttora riscontrato nessun tipo di problema. Viene utilizzata da tutte le nostre nazionali, viene utilizzata dalla C San Marino, che fa la C2, la seconda divisione. E viene utilizzato per fare le finali di campionato, Coppa Titano, eccetera. Viene utilizzato dalla scolaresca la mattina, viene utilizzato dall'atletica leggera per fare i lanci del giavellotto, e quindi ha un utilizzo molto molto intensivo, più altre manifestazioni di vario tipo. Abbiamo creduto in questa innovazione, che fra l'altro è recentissima perché ha pochi anni di vita. E diciamo che abbiamo fatto una specie di scommessa, perché il rischio comunque ci poteva essere, era un rischio molto calcolato, alla luce del sole sembra che finora i risultati ci diano ragione, insomma. E allora abbiamo scoperto la formula magica adottata dagli amici sammarinesi. Un tappeto in erba rinforzata che fa convivere un manto d'erba naturale su un manto di erba artificiale. È di Arlo un'azienda italiana, la Limonta Sport Italia. Nostro ospite è il direttore generale di Limonta, Roberto Nusca. Dottor Nusca, allora, in cosa consiste quello che avete denominato come Football Green Life? Praticamente siamo riusciti a far vivere e convivere due manti, quello artificiale e quello naturale, insieme. Succo dell'assunto qual è? È che l'atleta gioca su un tappeto perfetto in erba naturale, quindi l'interfaccia è totalmente erba naturale, quindi il profumo dell'erba, il taglio, la caduta, la scivolata, tutto quello che sono le caratteristiche di un prato tradizionale, però questo vive e convive, come ho detto, facendosi forza di una sottostruttura artificiale, quindi acquisendo dall'artificiale tutte le prestazioni tecniche di forza e trasferendo invece al manto finale naturale la piacevolezza del calpestio e del gioco su un vero prato. Quindi, insomma, per capirci, sotto c'è una base artificiale, poi uno strato d'erba naturale, quindi se io dovessi giocare, cosa che spero vivamente presto, in Serie A su un campo di questo tipo, gioco di fatto sull'erba quella che di tutti i giorni, insomma. Assolutamente sì, l'erba è totalmente naturale, il tappeto è naturale, praticamente non c'è nessun tipo di mix o altro, abbiamo proprio il manto erboso tradizionale sopra all'altro campo. Quali possono essere i costi per una società, per un club che voglia dotarsi di una struttura, di un impianto, di un campo di gioco di questo tipo? Guardi, io vi posso dare un'indicazione, lo stadio di San Marino, che è uno stadio ufficiale riconosciuto per partite internazionali, è stato rifatto totalmente dai sottofondi fino all'impianto di irrigazione, ultime tecnologie, proprio l'applicazione di questo manto è costato poco sopra 700.000 euro. Grazie dottor Nusca. Più importante dell'investimento però il fatto che finora il manto in erba rinforzata non abbia creato difficoltà tecniche o conseguenze fisiche ai veri protagonisti, cioè agli atleti che lo utilizzano ogni giorno. Se quindi la tecnologia è già in grado di proporre soluzioni adeguate a condizioni meteo particolarmente difficili, come quelle di questo inverno, quello che manca in Italia è però soprattutto una cultura della manutenzione e della valorizzazione dei campi da gioco, del palcoscenico, cioè su cui gli attori protagonisti, calciatori o altri atleti, devono mettere in scena la loro performance. E allora chiudiamo questa nostra inchiesta con Marco Volterrani, docente dell'Università di Pisa e presidente della società europea Tappeti Erbosi. Professor Volterrani, allora, che differenza c'è tra l'Italia e il resto del mondo in fatto di manutenzione dei nostri prati da gioco? In Italia c'è un po' il difetto che non si tratta il campo in maniera scientifica. Ci si trova in inverno quando le condizioni sono brutte, e si osserva il malato ma non si previene la malattia. Cioè bisognerebbe provvedere a fare indagini, fare misurazioni, prendere provvedimenti almeno 4-5 mesi prima, cioè quando la stagione è buona, in agosto, settembre. Immagino che per lei sia musica il vedere i giardinieri di Wimbledon, no? Tanto per rimanere in argomento di erba celebre e studiare un po' il modo con cui loro mantengono quei prati celeberrimi che ospitano poi il torneo di tennis più prestigioso al mondo, ad esempio. Sì, effettivamente loro fanno delle cose veramente a livello elevato, soprattutto perché appunto il tennis ha bisogno di prati rasati a pochi millimetri, quindi non possono sbagliare niente. So che lei ci sta parlando dall'America, da Miami, dove si è recato proprio per una serie di convegni, di lezioni sull'argomento. Negli States qual è la situazione che ha potuto vedere con mano? In Florida sono molto fortunati perché il terreno naturale è una bellissima sabbia, quindi non hanno problemi di drenaggio, non hanno problemi di fango. Ma poi soprattutto utilizzano quello che la scienza mette a disposizione, quindi le piante adatte a ogni situazione, la manutenzione veramente impeccabile, così riescono a ottenere molto di più rispetto a quello che si riesce a ottenere in Italia, dove non si affrontano i problemi in maniera scientifica. Insomma, la soluzione sembra arrivare da un mix di tecnologia, buon senso e cultura sportiva e della manutenzione dei campi da gioco. Staremo a vedere. Intanto per la puntata di oggi di A Bordo Campo è tutto. Un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci, così come tutti gli altri programmi di Radio 24, dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento l'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30. Un saluto da Dario Ricci.